Voci di piccola impresa. Idee di futuro. Di Anna Marino. Benvenuti, questa puntata è dedicata alle idee di futuro sostenibile delle piccole e medie imprese. Ci concentriamo oggi sulla building economy, cioè sui materiali e costruzioni sostenibili. L'economia circolare che porta a uno sviluppo sostenibile sposta l'attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare, riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Grazie alla collaborazione tra persone e territori, in ogni emergenza economica, ambientale o sanitaria, abbiamo capito quanto sia importante perché siamo tutti interconnessi e proprio per essere concreti, per ripartire e guardare al futuro, bisogna replicare le idee che funzionano e le storie di queste puntate di Voci di Piccola Impresa dedicate alle idee di futuro sostenibile dimostrano che non si tratta di parole ma di fatti realizzabili grazie a imprese apripista. Iniziamo ad ascoltarle. Si può ricavare sostenibilità dal materiale plastico usato come quello dei pneumatici? Sì, si può. Tecnofilm S.p.A., nata per servire il settore calzaturiero, ha progressivamente ampliato gli impianti e rinnovato la tecnologia per la produzione di materiali termoplastici e polimeri funzionali. E con notevoli investimenti in ricerca, sviluppo, macchinari e risorse umane è arrivata a vedere i materiali Tecnofilm sostenibili dal punto di vista ambientale e applicati in numerosi settori, dall'edilizia al personal care, dall'automotive al packaging. Per questo nel registro imprese l'azienda risulta iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI innovativa. Racconta la sua idea di sostenibilità Roberto Cardinali, consigliere delegato dell'azienda Tecnofilm. La nostra idea di sostenibilità è quella di dare valore a materiali che fino ad oggi sono considerati uno scarto, quindi dobbiamo nobilitare e riutilizzare ciò che oggi c'è. In particolar modo ci siamo focalizzati negli ultimi 2 anni in un progetto di ricerca, stato poi finanziato anche a livello europeo, che ha portato alla realizzazione di un compound, quindi di un particolare composto destinato alla modifica dei bitumi per la realizzazione di asfalti stradali ad alte prestazioni, e raggiungendo quindi sostanzialmente anche superando le prestazioni tecniche dei materiali tradizionali che vengono abitualmente usati per questa applicazione, riducendone i costi ed ovviamente con un impatto ambientale importante, perché potenzialmente con la nostra tecnologia a livello europeo si riesce a garantire un risparmio fino a 3.000 tonnellate di CO2 equivalenti per la nostra capacità produttiva. Il materiale nasce dall'idea di poter recuperare i pneumatici che vengono appunto tradizionalmente scartati. Consideri che ogni anno a livello europeo se ne producono circa oltre 3,2 milioni di tonnellate. La quasi totalità viene recuperata, però solo il 50%, diciamo, di questi prodotti entrano in un vero e proprio circuito di riciclo industriale. Il nostro obiettivo è stato quello appunto di nobilitare un prodotto considerato appunto di scarto, dandone quindi una nuova vita, un nuovo valore. Questo prodotto rappresenta una svolta anche per la vostra azienda, perché è stato implementato da voi. Come, chi vi ha aiutato, con quali iniezioni di capitale? L'azienda nasce in realtà nel 72. Questo prodotto ovviamente è frutto di un percorso di diversificazione che abbiamo affrontato negli ultimi 10 anni, e questo progetto in particolar modo è stato sostenuto con il programma Horizon 2020. Si è concluso con successo appunto nel dicembre dello scorso anno. Ovviamente senza queste risorse sicuramente il percorso sarebbe stato molto più lungo e tortuoso, insomma. I fondi sono serviti, è molto importante anche capire i numeri e la misura della vostra azienda. Qual è il vostro modello di business, il vostro fatturato, le persone che impiegate? Siamo un'azienda che ha un fatturato di circa 35 milioni di euro con 60 persone. Questo progetto è stato un progetto da oltre 1.600.000 euro, quindi insomma una cifra importante che sicuramente da soli avremmo fatto più fatica ad affrontare. Quali sono i vostri clienti appunto all'interno del modello di business, e i costi sono maggiori o minori rispetto ad altri prodotti di categoria? Questo prodotto è destinato a chi fa modifica bitumi, quindi tipicamente si tratta di un'azienda che o appunto vende bitume, quindi produce e vende bitume, oppure trasformatori che fanno appunto questo lavoro di modifica aggiungendo polimeri al bitume che viene poi venduto a chi esegue, diciamo, il lavoro stradale. Uno dei punti di forza di questa tecnologia è il risparmio. Spesso, infatti, purtroppo i materiali di recupero vengono reimmessi nel mercato ma con dei costi superiori rispetto magari a materiali tradizionali. Nel nostro caso invece siamo riusciti ad ottenere pari prestazioni spesso le abbiamo anche superate con test che abbiamo fatto anche in collaborazione con l'Università di Bologna, ora ne stiamo facendo altre con l'Università di Ancona, però con costi di produzione, quindi prezzi di vendita più bassi rispetto ai materiali tradizionali. Sostenibilità nei materiali, sostenibilità nella produzione, sostenibilità anche nell'attenzione alle persone, insomma anche al welfare, al loro benessere, ecco, anche in questo periodo di emergenza e per la ripresa avete pensato, insomma, tutto tondo anche la sostenibilità. Come vi siete organizzati per la ripresa e la ripartenza? In realtà non ci siamo mai fermati, nel senso che in questo periodo abbiamo comunque portato avanti la nostra attività produttiva, in un periodo in cui ovviamente diventa sempre più importante portare innovazione, nuovi prodotti anche in settori considerati tipicamente tradizionali come può essere quello dell'edilizia, e ovviamente dobbiamo lavorare per crescere chiaramente e anche sviluppare gli altri progetti che stiamo portando avanti sempre nell'ottica della sostenibilità, in particolar modo sempre nell'ambito del riciclo dello pneumatico. In quel caso ci siamo focalizzati invece non sulla gomma, non sulla parte di gomma, ma sulla parte di fibre, andando a realizzare un materiale che ha importanti proprietà di resistenza agli impatti, che quindi svilupperemo soprattutto in ambito di automotive o di prodotti magari che necessitano appunto di alte resistenze alla rottura sostanzialmente. La seconda storia dimostra che si possono costruire case ecosostenibili a 360 gradi. La nascita della viterbese Saggini Costruzioni risale agli anni 70. Avviata da Massimo, inizialmente piccolo costruttore edile che si occupava principalmente di ristrutturazione di lavori conto terzi, crescendo pian piano ha iniziato negli anni 90 l'attività di sviluppo immobiliare e quindi i propri cantieri. È stata la prima a introdurre nel territorio il concetto di risparmio energetico per reagire alla crisi del 2008. E in piena crisi nel 2010 è nata la prima casa clima a Grotte Santo Stefano. L'agenzia Casa Clima è a Bolzano e certifica le case dopo adeguati controlli, e Saggini Costruzioni ha voluto aderire a questa certificazione formando il suo personale tecnico e poi tutte le maestranze. Risparmio energetico, ad esempio, il consumo medio di un riscaldamento di una casa da 100 metri quadri utili per l'intera stagione invernale è stato di 147 euro, l'isolamento acustico, la domotica, l'accessibilità dei costi, in una parola ecosostenibilità. Come racconta Sergio Saggini, proprietario della Saggini Costruzioni S.p.A. La nostra idea è partita circa nel 2005, quando sono entrato nell'azienda che ha fondato mio papà, che aveva una sua storia, ma con l'avvicinarsi della profonda crisi del 2008 che ha investito il settore immobiliare, dopo i primi 3 anni in cui chiaramente ho passato col tempo a imparare, insomma, questo nuovo mestiere, insomma, ero fresco di studi, ho avuto l'idea di preparare l'azienda per un nuovo tipo di costruzione che in realtà era nuovo per le mie zone, quindi per Viterbo, che è la città dove opero, ma non era assolutamente nuova, perché è un'idea, insomma, che era già affermata nei paesi del nord Europa e in Italia, soprattutto a Bolzano. Un'idea sostenibile, cioè un'idea di una casa sostenibile. Una casa che avesse come principale obiettivo quello del benessere della persona, ma che fosse costruita nel rispetto dell'ambiente e con l'obiettivo del risparmio energetico. Questa per me, insomma, è sostenibilità, prima di tutto risparmio energetico, secondo punto costruzione con materiali che rispettino l'ambiente e che rispettino soprattutto le persone che poi ci vivranno. Curiosità, come è fatta la vostra casa, con quali materiali? Andiamo, insomma, a visualizzarla. La nostra casa è una casa estremamente tradizionale, perché abbiamo voluto portare quella che era una cultura sicuramente nord europea e che si avvicinava, insomma, a quella del legno, perché chiaramente il materiale storicamente più disponibile nelle loro zone era il legno. Noi l'abbiamo trasportata nella nostra cultura, che è quella, insomma, romana fra virgolette, quindi la cultura del mattone, una casa con struttura in cemento armato. Noi facciamo, diciamo, edilizia grande, quindi palazzine, mattoncino esterno a faccia vista, tetti verdi, quindi giardini pensili, normalmente sopra ci sono piscine, quindi sono case dove sfruttiamo anche spazi che normalmente erano adibiti al supporto tecnologico della casa, insomma, pannelli eccetera. Qual è il vostro modello di business nella costruzione sostenibile? L'azienda oggi ha un fatturato che va dai 9 ai 13 milioni annui. È un'azienda che occupa stabilmente tra le 30 e le 40 persone, collaboratori esterni all'incirca una sessantina. È un'azienda che, quando siamo partiti con quest'idea del 2005, fatturava 1,5 milioni, quindi abbiamo moltiplicato quasi per 10 il fatturato in piena crisi. Quindi la sostenibilità è non solo un concetto, ma è assolutamente un business, ed è assolutamente un business buono, che fa bene e che è vincente e che ha dei ritorni. Ecco, per il futuro che cosa vedete? Penso che il futuro sia ancora maggiormente orientata alla sostenibilità. Sono abbastanza convinto che, nonostante le previsioni dicano che sicuramente da questa crisi anche il settore immobiliare riceverà un ennesimo colpo, sono invece convinto che questa nicchia di settore avrà invece un'ennesima spinta, perché vivere 2 mesi rinchiusi in casa ci ha fatto forse capire quanto è importante, per esempio, uno spazio aperto, quanti sono importanti i parchi che facciamo all'interno delle nostre costruzioni. Quindi sono abbastanza convinto che si cercherà ancora di più una casa che punti al benessere a 360 gradi.